Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Allora, subito alla mail unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale segnalare casi interessanti che non interessino ovviamente solo chi ne scrive, perché altrimenti non possiamo trattarli. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, nei giorni scorsi abbiamo affrontato il tema degli abusi nei confronti dei disabili mentali e del loro difficile percorso di reintegramento nella vita sociale di tutti i giorni, nella vita lavorativa, ma anche nei rapporti quotidiani. Abbiamo sentito degli splendidi sforzi che fanno le strutture pubbliche, i dipartimenti di salute mentale, e abbiamo anche ascoltato qualche critica, diciamo così, alle sovvenzioni nei confronti delle cliniche private. Beh, lasciamola come critica generica, ma poi l'approfondiremo anche con queste strutture. E oggi andiamo in un territorio piegato ma fino ad un certo punto, e ora ce ne renderemo conto, dal clan dei Casalesi. Quindi parliamo di una camorra riservata e non guascona come quella napoletana, ma che fa affari e li fa in tutto il mondo e che mette spesso in ginocchio appunto le popolazioni, in gran parte oneste ovviamente, di quelle zone. Ne parliamo perché abbiamo delle splendide iniziative appunto di cui parlare nei confronti dei disabili mentali. Lo facciamo con chi? Con Giuseppe Nese, che è il coordinatore sociosanitario dell'ASL di Aversa. Buongiorno. Buongiorno. E con Peppe Pagano, che è il referente per gli inserimenti lavorativi della cooperativa sociale Nuova Cucina Organizzata di San Cipriano d'Aversa. Buongiorno Pagano. Buongiorno a voi. Allora Nese, cosa fate di bello per far sentire i disabili mentali come persone realmente diversamente abili e quindi in grado di dare un contributo alla società? Beh, credo che facciamo due tipi di interventi sommariamente. Uno legato all'organizzazione delle aziende sanitarie dei comuni, che hanno definito da circa 6 anni dei modelli congiunti di intervento, e un altro invece legato all'operatività sul territorio individuale, con delle azioni che hanno tutte dei progetti individuali. Queste sono attività di una delle aree dell'azienda sanitaria, che è il Dipartimento di Salute Mentale, e sostanzialmente rispetto all'inclusione sociale e quella lavorativa in particolare, per quello che ci interessa in questa esperienza, realizziamo percorsi che hanno obiettivi chiari sia a livello di governo sia a livello operativo e che prevedono chiaramente una reale inclusione a livelli lavorativi come quelli che tutti comunemente possono immaginare. Assolutamente. Ecco Nese, le chiedo questo, ma è un territorio ricettivo o un territorio che tende ad isolare le persone che hanno appunto dei deficit mentali? No, è un territorio che fa tutt'altro che isolare le persone che hanno difficoltà. Io credo che questo sia un po' anche legato alla diffusa conoscenza delle difficoltà. Molti si meravigliano del fatto che nei luoghi dove alcune problematiche sono particolarmente intense, questo è il luogo di un ospedale psichiatrico giudiziario più vecchio e più grande d'Italia. Certo, i vecchi OPG, certo. Esatto. È un luogo di criminalità organizzata e di negazione dei diritti, beh, questo obbliga necessariamente le persone, per usare una metafora, a fare l'ordinario attraverso necessariamente lo straordinario o l'eccezionale. Assolutamente. Per alcuni obiettivi bisogna fare delle cose che richiedono molto impegno. E questa è una riflessione davvero molto bella. Come li inserite praticamente? Ci faccio l'esempio di una persona che magari in questo momento lei sta seguendo. Allora, il punto di partenza è, cercavo di spiegare prima, il contesto. Deve esserci un sistema di governo che mette insieme assolutamente tutti i soggetti istituzionali che hanno competenze, azienda sanitaria, comuni, province, regioni, anche ministeri per certe cose. Questo anche segnatamente con riferimento alle risorse. Certo. Perché questo è un problema che esiste, che tipicamente vengono parcellizzate, divise, scomposte. Invece a questo livello sono organizzate. Da questa azione, da questa organizzazione nascono delle azioni che nel caso specifico, a livello operativo di singolo cittadino che ha un bisogno, prevedono la chiara definizione delle potenzialità e degli obiettivi di un intervento. Nell'esempio che poi credo che Peppe Pagano riuscirà a documentare bene, una persona che ha una disabilità, benché culturalmente sia riconosciuta come una persona che in realtà deve essere valutata più che per le disabilità, per le potenzialità, le potenzialità vanno definite, quindi definire in una azione esattamente cosa quella persona può fare e legare in maniera chiara e vincolata anche le risorse a questi progetti consente ad esempio di progettare più che interventi assistenziali, interventi di vera inclusione che hanno degli obiettivi quali il lavoro. Il lavoro, entro in un dettaglio brevissimo, in questi progetti è necessariamente definito anche attraverso istituti contrattuali. Tipicamente quando si parla di inserimenti lavorativi si fa riferimento a borse di formazione e lavoro. Questo attiene strettamente alla formazione, non è l'inclusione sociale e lavorativa. Bene. C'è l'inclusione significa che quel progetto prevede dopo un certo periodo di tempo, tipicamente breve, il passaggio anche a forme reali di lavoro e contrattuali. Bene Nese, allora a questo punto sentiamo Peppe Pagano, perché Peppe Pagano ci parlerà di un ristorante pizzeria che si chiama NCO. NCO, per chi ha qualche annetto o per chi come me segue da tempo la criminalità organizzata, era la nuova camorra organizzata di un tale che si chiama Raffaele Cutolo, talmente potente da esportare, quando lo Stato ebbe la geniale idea di mandarlo in Puglia, da esportare la camorra organizzata anche in Puglia, fino a quel momento terra di brigantaggio, comunque diciamo così di episodi criminali, ciascuno scollegato dall'altro. Ebbene, siamo riusciti ad importarla e organizzarla anche in Puglia. Ed NCO è il nome della sua pizzeria e ristorante. Ma cosa vuol dire NCO, Pagano? Sarebbe proprio il contrario, noi vorremmo esportare delle buone prassi. Bene, si chiama Nuova Cucina Organizzata, sì, splendido. Volevamo partire non prescindendo dal nostro territorio, ma dal nostro territorio, perché praticamente questo territorio ha fatto sì che eventualmente lo stesso persona che oggi vi parla, io non posso non partire da un presupposto. Ieri ero un semplice cattolico che dava il mio contributo di volontariato in parrocchia unicamente. Poi ho avuto la fortuna che sul mio territorio abbiamo avuto il dottor Rotelli, basagliano che da Trieste è venuto a fare il direttore generale nella ASL Caserta 2, e dal semplice pensiero di dire eventualmente queste persone normalmente basta che non danno fastidio, stanno pulite, sono tranquille e tutto, poi il resto non fa niente, al pensiero di dire che queste persone hanno diritto a un lavoro, a una dignità, a una casa, che è tutt'altro dal fatto di stare puliti e sistemate e non dare fastidio a qualche clinica, abbiamo iniziato a pensarla completamente in altro. Posso dire questo, mi hanno invaso del loro vivere, della loro cultura rispetto ai diritti al vivere civile. Ecco, diciamo che per quanto possa sembrare paradossale, ma in realtà non lo è, questa pizzeria, lo dico, si trova in via Po a San Cipriano d'Aversa, terra dominata dai casalesi, Bidognetti, Schiavone, quant'altri, La Torre e via dicendo. Al numero 12 si trova appunto in provincia di Caserta. Vi do anche con grande gioia il telefono 081 89 12 801. Perché lo dico? Perché ogni pizza comprata lì è un gesto anche di legalità. O sbaglio, Pagano? Certamente, certamente. Abbiamo fatto sì che non solo i ragazzi entrassero in un'attività di carattere lavorativa, quindi i ragazzi che oggi sono soci della cooperativa, non sono solo lavoratori della cooperativa, sono soci lavoratori della cooperativa, e praticamente noi all'interno del ristorante, oltre a usare farina, olio e vino di libera terra fatta su beni confiscati, tra cui il nostro vino orgoglioso viene fatto nel Lazio ed è il Gabbiano, della cooperativa Il Gabbiano del Lazio, certo, ma su terreni soggetta nel passato anche ad atti vandalici. Noi abbiamo avuto il rappresentante della cooperativa Il Gabbiano ospite ai nostri microfoni, prego. questo ci inorgoglisce tantissimo, perché anche se lei deve sapere, io non conosco il presidente della cooperativa, ma sapere che posso eventualmente con il mio lavoro e con grazie al contesto in cui vivo dare una possibilità e un'occasione e un'opportunità a quei giovani, a quei ragazzi che con sforzo con noi condividono gli obiettivi che abbiamo di liberare questi territori da questa che è per noi una gabbia che non ci fa esprimere, non ci fa eventualmente crescere come territori. Assolutamente d'accordo. Lo amiamo in un modo pazzesco. Allora, territori. Io dico questo, viva San Cipriano d'Aversa, viva la gente onesta di quell'area purtroppo massacrata da una banda di delinquenti senza cuore e senza cervello. Andatevi a mangiare una bella pizza in questo ristorante in via Po al 12, ripeto, a San Cipriano d'Aversa, farete due cose straordinarie in una. Prima entrerete in contatto con persone diversamente abili e non pazze, secondo darete un contributo splendido alla legalità. Pensate che rabbia in quel momento per i casalesi e per il loro esercito squinzagliato nell'Aversano. Io ringrazio Peppe Pagano della cooperativa sociale NCO di San Cipriano d'Aversa, Giuseppe Nese, coordinatore sociosanitario dell'ASL di Aversa. Continueremo nei prossimi giorni a parlare di disabili mentali. Grazie regia Peter Bescapè, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.